Come funzionava Brontos? È una cosa complicatissima. Oddio. Ed è fatta apposta complicata proprio per far perdere le tracce, penso io. Cioè, è l'unica spiegazione logica a una complicazione del genere. Sostanzialmente, semplificandola, veniva così. Viene creata una società in Lussemburgo, da Barclays, la quale questa società emette dei titoli atipici, che non sono né azioni né obbligazioni, sono profit participation instruments. Titoli atipici. Manco si pronuncia praticamente. Esattamente, sì. PPI li chiamano in inglese. PPI. Questi titoli vengono venduti alla Barclays Milano, la quale ovviamente per comprarli li paga alla società lussemburghese, la quale mette questi soldi che incassa nel conto corrente di Barclays a Londra. Nel conto, in un deposito. A questo punto dal deposito di Londra arrivano gli interessi, ovviamente, che vengono girati alla Barclays Milano. È qui che inizia a entrare Unicredito, perché Barclays Milano a questo punto usa questi titoli per darli a Unicredito attraverso un cosiddetto pronti contro termine. Te li do oggi e tra un tot di tempo me li ridai indietro a un prezzo prestabilito. Per cui nel momento in cui questi titoli erano di proprietà di Unicredito, era Unicredito a percepire questi, tra virgolette, interessi. Ed è proprio questo il problema, perché secondo l'inchiesta del procuratore aggiunto Alfredo Robredo della Procura di Milano, tutta questa ambaradan era semplicemente costruito per far sì che Unicredito non percepisse interessi, che sono tassati in Italia, ma percepisse dividendi, proprio perché questi titoli PPI non davano effettivamente interessi, ma davano dei dividendi. E dato che i dividendi sono trattati fiscalmente in maniera molto, hanno delle deduzioni molto forti, questo dava a Unicredito un beneficio fiscale. Secondo il procuratore aggiunto, questa operazione non era null'altro di un deposito interbancario mascherata proprio per trasformare in maniera virtuale gli interessi in dividendi per avere questo beneficio fiscale. Secondo l'accusa, appunto, questa operazione non creava né profitti per Unicredito o per Barclays, non creava rischi perché tutti i rischi erano sterilizzati. L'unica ragione, secondo l'accusa, per cui è stata messa in piedi è semplicemente per aggirare il fisco italiano. Ovviamente l'accusa della procura è di dichiarazione fiscale fraudolenta, quindi la procura accusa Unicredito di evasione fiscale per appunto questi 245 milioni. Unicredito dice dal canto suo che tutto era regolare, ovviamente sarà il processo che stabilirà chi ha ragione, questo è ovvio.